Enea, storie di nuovi italiani, di Valentina Furlanetto. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto, bentornati ai figli di Enea, ultima puntata di questa stagione, la prima stagione della nostra trasmissione. Questa sera siamo con Marilena Umuozzadelli. Buonasera innanzitutto Marilena, benvenuta. Buonasera. Allora, Marilena è autrice di Razzismo all'italiana, cronaca di una spia mezzo sangue, un libro che avevamo avuto l'onore di ospitare qualche anno fa nella precedente trasmissione Indovina chi viene a cena, e sarà di nuovo in libreria a breve con un nuovo libro, Negretta, per Red Star Press, un racconto centrato sulla scoperta e sull'affermazione di un'identità afro-italiana. Istantanee attraverso le quali Marilena ci racconta come è stato crescere in un'Italia settentrionale tutt'altro che inclusiva, bambina e adolescente, negli anni in cui lei è cresciuta. Però non è completamente autobiografia, è un romanzo per istantanee, così Marilena? Esattamente, Negretta è la carta d'identità di una bambina che nasce e cresce in un paese con mamma ruandese, papà bergamasco, in cui è vittima del razzismo di compagni, insegnanti, conoscenti e non, forze dell'ordine, perfino di quello dei muri con le scritte "emigrati fuori" e che le ricordano costantemente che è indesiderata. Quindi trae molto dalla mia storia personale. Però è un, come hai detto tu, un romanzo, e l'hai detto bene, a istantanee. Negretta è una ragazza che subisce questa forte discriminazione, che in realtà si intreccia anche con la storia della madre, una madre che è stata vittima di esperimenti scientifici dai coloni belgi nel suo Ruanda, vittima quindi anche della guerra tra tribù tutsi nei tre genocidi che hanno poi ucciso tutta la sua famiglia, e che è vittima del razzismo in Italia, quindi passa da un paese razzista per andare a vivere in un altro paese razzista, una mamma che fa forte pressione su questa ragazza, che costringendola a diventare come le persone che sono intorno a lei, italiani, bianchi, quindi deve per forza sbiancarsi la pelle, lisciarsi i capelli, deve fare meglio di tutti gli altri a scuola, perché usando proprio le parole della mamma, che è un mantra anche del libro, loro ci guarderanno sempre come esseri inferiori. Poi c'è anche la storia del padre, che è un ex prete leghista convinto, che per amore ha lasciato la tonaca e che deve pagare un alto prezzo, l'alienamento della sua famiglia e anche della società, così nonostante la sua cultura e la sua esperienza è costretto a svolgere i lavori più umili ed è in bilico, è costantemente faccia a faccia con la povertà e la miseria, passa da un lavoro all'altro, da uno sfratto all'altro, una figura un po' amata e odiata dalla protagonista, e che rappresenta poi simbolicamente anche l'Italia, un'Italia che lei ama profondamente perché è nata in Italia e si sente italiana al 100%, ma che allo stesso tempo odia, perché si sente respinta dalle persone che sono tutte intorno a lei, la società e la sua famiglia stessa. Non ha alcun tipo di rapporto con gli zii, con i parenti, che non vogliono avere nulla a che fare con la famiglia. Anche lei aveva un padre a lungo missionario in Africa, più africano dentro della madre, se posso dire così, che era invece divenuta italiana ed europea, sempre al passo con la moda, con la tecnologia, ruandese, e anche lei è cresciuta a Bergamo, una delle roccaforti leghiste. Quanto c'è di vita vera, di autobiografia nel libro, e quanto in realtà si discosta il libro dalla sua vita? C'è molto di me in questo romanzo. Però la novità qui è anche che c'è una storia di amicizia che prevale in tutto il libro, ed è quella tra la protagonista, lei si chiama tra l'altro Marilena come me, e la sua migliore amica Eugenia. Lei è bergamasca e però si trovano a diventare amiche in una situazione particolare, sono vittime del coro razzista sul pulmino, quindi battezzate da una pioggia di pallottole di carta, di Big Bubble, di Smarties. Queste due ragazze diventano amiche, infatti vengono prese in giro, una perché ha la pelle troppo nera e quindi la chiamano caffè, e l'altra perché ha la pelle troppo bianca, così bianca da sembrare malaticcia, la chiamano latte, e quindi loro usano addirittura questi nomi, li fanno propri, diventa il loro orgoglioso nome di battaglia. Quindi si chiamano tra loro anche caffè e latte ed è un'amicizia veramente straordinaria che passa per amori, litigi, colpi di scena, un finale sicuramente da togliere il fiato, che posso dire è imprevedibile ed è molto hot. Musica. Tutto quello che non saprò mai e che mi gira intorno mi tiene vivo. Tutto questo eterno movimento che noi ci siamo dentro, la gioia e lo spavento. Tutte le parole fuori tempo, le strade senza scampo, le orecchie che non vogliono sentire. Tutte le ragioni che non ho, tutti gli orizzonti che non ho toccato mai. E poi c'è questa cosa che mi carica e si chiama musica. Musica. E poi c'è questa cosa che mi carica e viene dall'Africa. Africa. Perché Marilena, lei è tornata su questo tema? Lo dicevamo all'inizio, aveva già scritto un libro che era un memoir sul razzismo all'italiana, questo era proprio il titolo. Cosa ancora aveva da dire rispetto al precedente? Innanzitutto io sono cresciuta senza modelli neri positivi, sicuramente nei testi scolastici non ritrovavo nessun personaggio in cui potessi riconoscermi, e anche in questo momento io sento che c'è il bisogno di parlare di questo problema del razzismo o attraverso memoir, anche romanzi, in cui la protagonista sia donna. E questo non è un po' anche un rischio artistico come scrittrice, come fotografa, quello di riproporre lo stesso tema, il rischio di essere afro-italiano come un mestiere? Io penso che la comunità afro-italiana, come ho detto prima, abbia bisogno di essere rappresentata più che mai. Ho la fortuna di poter spaziare tra la scrittura è prettamente incentrata, come hai detto tu, sulla comunità afro-italiana, quello sì, ma con la fotografia io spazio e mi rivolgo soprattutto agli artisti musicali che fanno parte anche del mio paese, dell'Italia. Ho lavorato anche con Jovanotti al suo disco che poi ha prodotto negli Stati Uniti, ma anche con paesi africani, paesi asiatici, ho lavorato negli Stati Uniti e quindi cerco di spaziare. Abbiamo assistito in queste settimane alle manifestazioni in seguito alla morte di George Floyd negli Stati Uniti, alle manifestazioni ribattezzate Black Lives Matter, le vite nere contano, un fenomeno che però è diventato anche un po' di moda, di posa, di marketing. Come mai è un fenomeno mondiale, ha attirato l'attenzione degli italiani tanto da portarli in piazza? Beh, sicuramente il problema negli Stati Uniti è molto grave, perché la polizia americana è responsabile di oltre 1000 omicidi in un anno. Il 24% di essi riguarda la comunità afroamericana, che rappresenta solo il 13% dell'intera popolazione. Quindi questo vuol dire che se io sono un afroamericano ho tre volte più possibilità di essere ucciso rispetto a una persona bianca, ed è terribile. La situazione è veramente grave, il razzismo risale ancora ai tempi della schiavitù. In Italia abbiamo un razzismo che è stato sempre comunque presente. Ricordiamo che l'Italia è il paese che ha approvato le leggi razziali e che sembra anche lontano purtroppo dall'aver imparato la lezione, perché l'OSCAD, che è l'Osservatorio delle Interforze per la Sicurezza contro gli Atti Discriminatori, ci dice che, questi sono i dati alla mano del 2019, 3 episodi di violenza su 4 hanno matrice razzista. Nel 2019, parlando quindi di fatti, 969 erano i reati che avevano a che fare con razzismo, identità di genere, disabilità. Nel 2016 erano 736, quindi vuol dire che ogni giorno 2,5 reati sono stati compiuti di questa matrice, quindi uno ogni 9 ore. Per quanto invece riguarda i dati sulle violenze fisiche e verbali che hanno a che fare specificamente con la razza, l'etnia, la nazionalità o la religione, nel 2019, ecco, qui ce n'erano 726, molti più dei 494 del 2016. Sempre l'OSCAD ci dice che c'è stato un impennamento nelle aggressioni fisiche, negli incitamenti alla violenza, negli atti di vandalismo. Ci dobbiamo fermare brevemente perché abbiamo una piccola pausa, ma torniamo con lei a parlare tra pochissimo con degli episodi, dei flash di questo libro Negretta. Figli di Enea. Siamo questa sera con Marilena Umuozza-Delli, scrittrice. Sta per mandare in libreria questo libro, Negretta, di Red Star Press. Sua mamma, in realtà, e la madre della protagonista arrivano in Italia per una questione d'amore. Il tentativo di sua madre è quello di assimilarsi, di diventare più bianca dei bianchi. Sì, la protagonista del libro è una madre, così come l'autrice di questo libro, che sicuramente desidera adattarsi all'ambiente in cui si trova, ha vissuto il razzismo del suo paese, che le è costato anche la perdita di tutta la famiglia, e ora vuole cercare di vivere in acque tranquille nel nuovo ambiente, che è poi il paese di suo marito, un marito che lei considera come l'unica ragione per cui la famiglia viene rispettata. Infatti la madre dice spesso alla figlia, ricordati che se la gente ci rispetta è solo per tuo papà, che è un bianco. Una madre che continua a ripetere alla figlia, ricordati che noi non saremo mai come loro, ma che cerca disperatamente di far diventare la figlia come loro, cioè come le persone bianche. E quindi anche la madre stessa diventa, diciamo, europea, e quindi sveste delle sue tuniche africane, dei suoi gioielli africani, e si trasforma, quindi diventa italiana, indossa tailleur, si veste in maniera elegante nel modo di percepire la moda in Italia, e così fa anche con la figlia, quindi le gratta la pelle con il sapone sbiancante al punto di farla arrossare, da far sorgere dei lividi, le stira i capelli nonostante la sua volontà. E c'è una scena molto bella che diciamo, in cui nel libro si parla proprio di questa mamma che mette questi prodotti chimici che danneggiano tantissimo anche la cute dei capelli della figlia, e questo viene riflesso dagli occhi della bambola bianca che è lì sullo scaffale del bagno, che riflette la scena. La mamma vuole che sua figlia diventi come quella bambola bianca e coi capelli lisci. Tutte le ragazze alla pari, luoghi immaginari dove si sogna di ricominciare, l'odore della pista, dei locali seminterrati dove nel buio ci siamo illuminati, tradimenti, giustificazioni, milioni di milioni di milioni di opinioni, tutte le preghiere della gente, tutte le pallottole sparate ad un bersaglio trasparente. Poi c'è questa cosa. Cosa vuol dire lisciarsi i capelli per una donna afro? È una delle cose, secondo me, più umilianti e degradanti che si possa fare, soprattutto quando si è costretti a farlo. Si è costretti a farlo, nel caso della protagonista, dalla madre, che le dice costantemente che lei è un essere inferiore a causa della sua pelle, a causa dei suoi capelli ricci e non lisci. È una cosa profondamente degradante che lascia delle cicatrici profonde sull'identità di una persona, tra l'altro una bambina. Come crescerà da adulta? Sarà un'adulta sicuramente insicura, un'adulta che vive nell'ansia, un'adulta che si sentirà sempre meno rispetto alle altre persone. E la figura del padre è una figura un po' controversa, perché è un padre che comunque abusa anche sia della madre che della figlia. Esatto. Le picchia. E sottrae loro la possibilità di prendere addirittura gli assorbenti. Sì, esattamente. Il padre desidera che ha il controllo delle finanze della famiglia, e quindi nega alla moglie cose basiche come avere degli assorbenti, che sono fondamentali per una donna. In questo momento assistiamo a una furia iconoclasta nei confronti di film come Via col Vento, nei confronti di statue, di personaggi storici che vengono accusati di essere razzisti. Lei che opinione ha in merito? Io penso che queste statue, questi pezzi artistici importanti come Via col Vento, quindi parliamo di film, o anche brani musicali che vogliono essere estirpati dalla memoria, siano invece un punto di riflessione per tutti noi. Per cui credo che comprendo la rabbia, soprattutto derivata dal razzismo, dall'ingiustizia, però credo che abbattere una statua piuttosto che un film, eliminare un film, un brano musicale, danneggino in realtà la nostra storia. Questi dovrebbero essere dei punti da cui partire, dei punti di riflessione per ricordarci chi siamo e quello che abbiamo fatto. Quindi niente spugne per cancellare il passato, ma vedere il passato e riflettere sul passato. Sì, io penso proprio di sì, perché non serve a nulla cancellare, cercare di purificare qualche cosa che in realtà appartiene a noi, fa parte della nostra storia ed è il motivo per cui oggi siamo una società democratica. E la statua di Montanelli, ad esempio, di cui si è discusso molto? Beh, sicuramente io lascerei la statua di Indro Montanelli, ma aggiungerei forse anche una placca che descriva anche le sue azioni passate in quanto volontario fascista. Tutto il ghiaccio sciolto nei bicchieri, le nuvole di ieri, la neve dell'inverno scorso, il miracolo che arriverà, l'oceano attraversato nuotando a dorso, la fame, il disgusto, il lusso della scelta, il mondo che rimane una questione aperta, la lotta per restare umani con qualche imprevedibile regalo tra le mani. Mio padre si chiamava Gianni e, come hai detto tu, era un ex prete, era una persona anche lui molto autoritaria, sicuramente anche molto severa. Anche lui è passato effettivamente come il protagonista da uno sfratto all'altro, aveva una immensa cultura, leggeva moltissimo e poi conosceva tantissime lingue, nonostante questo era costretto a svolgere lavori più umili, quindi anche noi, proprio come il protagonista, abbiamo sempre lottato con la povertà e io sono una bambina che è cresciuta in fabbrica. La mia infanzia è tutta in una fabbrica chimica, dove tra l'altro mio papà, che era custode, aspirava e inalava tutte queste sostanze chimiche. Il suo compito era quello di, con il, una sorta di pala, doveva girare tutte queste sostanze chimiche in una vasca immensa, con tutte queste inalazioni, tutte le cose che non avrà sicuramente inalato mio padre in quel periodo. Guardando indietro non posso credere a tutto quello che comunque ho passato, no? Non è stato facile, però ho sempre avuto questo grande senso, questo senso positivo, ho sempre avuto questa positività che è stato mio padre a trasmettermi. Anche sua madre è una storia affascinante. Sì, per mia madre non è stato facile adattarsi all'Italia. Innanzitutto non conosceva per niente la lingua e quello era già stato un primo ostacolo, ma soprattutto le persone più che altro l'hanno fatto sentire inferiore sul posto del lavoro, ma anche i familiari, no, di suo marito. E la madre, tra l'altro, della protagonista, un po' come la mia, conosce benissimo la Costituzione italiana, che ama molto, ed ha appeso in un quadretto questo passo della Costituzione, che è l'articolo 3, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, sono uguali davanti alla legge, indistintamente dal sesso, dalla razza, dalla lingua, dalla religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, perché crede profondamente nella legge italiana, per quello che quando va a votare e le viene negato il voto, nonostante lei abbia diritto in quanto cittadina italiana, lei dice che non può assolutamente, può sopportare di tutto, può sopportare il razzismo verbale e anche fisico, ma la mancanza di rispetto di quella Costituzione in cui lei crede profondamente non lo può sopportare. Allora gli fa il passo in più e decide poi di ricorrere ad avvocati e di intentare una causa con il comune di Seriate, che appunto le ha impedito di votare e che naturalmente vincerà. Una donna, come hai detto tu proprio all'inizio, lei è più italiana che ruandese. E poi c'è questa cosa che mi carica e si chiama musica. E poi c'è questa cosa che mi carica, viene dall'Africa. Mi ha fatto sorridere quando la madre della protagonista del libro vuole chiamare la figlia Maria Elena, come la regina d'Austria. L'aspirazione è quella tutta europea. È vero, anche in questo, vedi, è veramente... questa è la bellezza della complessità di una famiglia multiculturale. Lei ama moltissimo, tra l'altro, re, regine, europee, e sì, è per questo motivo che ho voluto chiamare la protagonista Maria Elena. Ma quando il marito va a registrare il nome, lui che invece è proprio incurante di questi dettagli, no? Lo registrerà invece come Marilena. Poi una cosa importante è che vorrebbe anche registrare il nome Umuhoza, che è il suo nome ruandese, e invece gli addetti al comune, questa è anche la storia vera mia, lo rifiutano, considerandolo del tutto ridicolo. La stessa cosa è successo per me con mia figlia, quindi parliamo 30 anni dopo, in cui io sono andata al comune, ho voluto registrare il suo nome ruandese, Mutoni, e mi è stato assolutamente negato, perché noi nomi africani così non li mettiamo. Cosa Quindi non dire? Cambia, l'Italia non è cambiata in questi 30 anni. È per questo che questa storia è più attuale che mai, abbiamo bisogno di parlarne attraverso memoir, ma anche attraverso romanzi. Romanzo per istantanee che troverete in libreria a brevissimo, si chiama Negrete, Red Star Press. Questa sera abbiamo avuto l'autrice Marilena Umuhoza-Adelli. Buonasera, grazie per essere stata con noi. Grazie a tutti, buona serata. Grazie anche a tutti voi che siete stati all'ascolto di questa puntata e di tutte quelle che hanno fatto parte del primo ciclo dei Figli di Enea, che torna, speriamo, ma crediamo di sì, a settembre. Vi diamo appuntamento quindi ai primi di settembre con nuove puntate, con nuove storie. Una buona estate da Valentina Furlanetto e dalla regia è tutto. Appuntamento quindi a settembre. Ciao.